tempo. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Guarda, ho retweetato la foto che hai twittato. Sembra che io non fossi in radio, ma no, sono qua da... Ti sei alzato un attimo durante il radiogiornale. Sì, mi sono alzata un attimo durante il giornale radio. Allora, et Marta Cagnola, et di Bellasio. Non mi ricordo che numero di puntata è, ma l'anno è il quarto. Questa è la 25esima di quest'anno. Del quarto? Sì. Mazza, sono tantissime. No, guarda, non so quante. Abbiamo superato tante. 100, no? Abbiamo superato quanto? 300, 400? Non si non sa. Lo so, sono tante, guarda. Dobbiamo fare il conto, ma è facile perché poi io le numero così e quindi... Quindi basta fare i conticini. A allora, proposito cancelletto di Radio YouTube, ecco, bravo. Proposito? Cancelletto Radio YouTube, cancelletto ISDV. Sì. No, dicevo, a proposito di numerini, 349-238-6666. Certo, se volete scriverci in diretta. In diretta, bene. WhatsApp e SMS. WhatsApp audio noi li abbiamo. Sì, ma siccome io di solito sono qua in studio da sola, Calimero, sono qua in studio da sola. Ma se sono qua con te, scusami, capisco no, che dico, sono di trasparente. Di solito sono qua in studio da sola, dico non mandatemi il WhatsApp audio perché sennò faccio fatica, li ascolto, sbaglio, mando in onda le però cose. Però chissà, magari in futuro... Ma sì, dai, noi siamo pronti a qualsiasi evenienza. Allora, restiamo sempre in clima ecco, ma la domanda che vorrei farti è: sarà la sua fortuna o la sua condanna il fatto che ormai la canzone originale non frega più niente a nessuno, esistono solo le parodie? Ah, tu stai parlando di Francesco Gabbani, di Occidentali Scar. Ma allora, che della canzone originale non freghi più nessuno? Non è proprio così, perché proprio classifiche, tutte battute, record. E poi è stato anche a lungo nelle classifiche più o meno di tutta Europa, perché da quando hanno annunciato che appunto andrà a Escita, Eurovision. Per gli italiani, per voi italiani, tre perché che lo seguite. Lui, perché sì, ciao. Sì, Eddie, Marta e Nonfup. Ciaone. Ciaone. Allora, Escita, cioè Eurovision Song Contest Italia è sì. L'hashtag. E allora Daniele Bellasio vuole chiamarlo Escita e noi lo chiamiamo Escita. Siccome Gabbani va. Gabbani va, la canta tutta in italiano, l'ho annunciato ieri sera da Antonella Clerici. A me un pezzettino in inglese sarebbe piaciuto. Ma magari ci saranno delle sorprese, perché... chi può dirlo? Già c'è mezzo l'indiano, no? Cioè, quindi... Guarda, sorprese poche, perché lì sono organizzatissimi, no, bisogna decidere tutto. Sorprese. Però, dicevi, successo delle parodie, perché come dici sempre tu, quando uno ha davvero successo gli fanno la parodia. Anche se tu mi sottolineavi che sei una attenta a queste cose un po' intellettualoidi, che questa settimana c'è stata anche... Ma sì, perché allora tutti hanno detto, ah, perché il testo in realtà è una cozzaglia, tutti i dibattiti sul testo, e qualcuno alla Repubblica ha avuto l'idea di andare a chiederlo a Desmond Morris, l'autore della Scimmia Nuda, che ha detto, bello, va bene, piaciuto un sacco, ho votato al televoto per lui e per Range, ha votato per Range. No, allora carino. Prima si è fatto Rage. Dire chi era Rage. E poi dopo ha votato ma per Rage. Ma parlavo dei miei ospiti, Daniele Bellasio. Ma no, perché è bravissimo. È bravissimo. Poi nella pausa mi hai detto che scrive anche per Tiziano Ferro. Però la notorietà non è il suo forte. Scusami se lo dico. Vabbè, allora facciamo così. Ascoltiamoci un pezzettino di questa parodia Occidentalis Mamma. Vai. Si è messa in testa di essere un tipo atletico, si è scritta alla palestra di un suo amico asiatico, nella sua borsa adesso c'è l'ultimo iPhone, le hanno vietato anche il caffè, i suoi dietologi, la cresta sulla spesa per comprarsi il trilogi, ha il tatuaggio dei Moda, rossetti lucidi, scorta di Vagisil. Allora, posto che la voce è quasi uguale, lui è quell'imitatore molto bravo che è stato anche a Tale Quale? Non lo so, se me lo dici tu, ma perché te l'ho segnalato io, tu dici, quindi lo dovresti sapere tu. No, non è Leonardo Fieschi? No, credo, sì. Non lo so. Vabbè, adesso controlliamo, googliamo subito dopo. Insomma, la voce è uguale, sì. È identica. Ed è uno delle due grandi parodie di Occidentalis Karma. Questo è Occidentalis Mamma. E l'altra parodia qual è? Visto che sono praticamente tuoi, cioè, sì, i tuoi idoli. Però l'hai segnalata tu questa. No, sono gli effetti di Occidentalis Karma su mia mamma, giusto? E quindi sempre mamma di sempre chi? Visto Matte che sono... Bise, che prima o poi verranno Matte Bise, che vanno detti tutto attaccato, Matte Bise. Allora, sentiamo cosa hanno fatto. Mamma, mamma, sono di frettissima. Dove hai messo la camicia? Che stasera voglio uscire e voglio essere un figo, ok? Essere o dover essere? Mamma? Il dubbio atletico. Dov'è la camicia, mamma? Dov'è la camicia? Contemporaneo come l'uomo del neolitico. Mamma, ma cosa stai dicendo? Ma sei impazzita? Nella tua gabbia 2x3, mettiti comodo. Mamma, ma ti vuoi muovere che devo uscire con quella tipa che ho conosciuto sul web? Mamma, su internet! Tutti i tutorologi col web. Sì, vabbè, dai. Risposte facili. Ma risposte facili cosa, mamma? Che tu mi levi la roba e magicamente sparisce. La domanda è: dove cazzo è la mia camicia? Dilemmi inutili. Vabbè, insomma, suscita la mamma. La cosa che mi piace di più di questa parodia è di come loro sono totalmente stonati. Beh, sì, beh, non puoi chiedere. Cioè una cosa tremenda. Mentre la parodia di prima era molto intonata, questa qua, diciamo. Allora, Occidentalis Mamma canta Leonardo Fiaschi con la partecipazione di Maria Bolignano, da un'idea di Chicco Paglionico, Francesco D'Antonio e Don Andrea Monetti. Chissà se dirige il maestro Vince Tempera. Esatto, è il sogno della mia vita. Di Pace, Panzeri, Pilat, dirige il maestro Vince Tempera. Allora, questa settimana anche si sono cose serie. Sì, si sono arrabbiati un po' di persone. Mm-hmm. Una persona che si è arrabbiata tantissimo, possiamo dire anche con qualche ragione, poi dopo nel modo magari è discutibile, è stato Pif. Conosci Pif? Sì, chi Pif, non conosce bravissimo, Pif? Bravissimo. Si è arrabbiata tantissimo. È uno di quelli che in TV ha creato un vero e proprio stile personale. Sì, lo stile Pif. Lo stile Pif. E adesso questa settimana si è arrabbiato moltissimo con il presidente della regione Sicilia, mm-hmm, Rosario Crocetta, per un problema legato ai finanziamenti, agli aiuti alle persone che hanno bisogno di aiuto. Senti quanto si è arrabbiato. Presidente, no, c'è un'emergenza anche qua, c'è un'emergenza anche qua, ci sono 3.600 disabili che non hanno assistenza, è un loro diritto, se lei non è capace a dare i soldi, perché lei ci deve dire solo quando, si dimetta, perché è il suo lavoro dare un'assistenza a questi disabili, non me ne frega niente come! Lei doveva venire subito, perché noi siamo incazzati! Accidenti, si è arrabbiato davvero, è sì, proprio sì. Questa cosa, allora, a me è sempre piaciuto tanto Pif perché l'ho sempre trovato molto bravo, però questa cosa me lo fa sentire anche molto sincero. Sì, sì, sentiva dalla voce, quando hai quella voce lì strozzata sicuramente non stai recitando. Sì, e quindi... sì, l'ho sentito veramente sinceramente indignato e sinceramente sofferente, credo che sia una cosa che non si possa fingere in no, quel modo lì, è insomma una cosa importante. Assolutamente, ma abbiamo il tempo per un'altra arrabbiato? Ma sì, dai, un pezzettino di arrabbiato ancora. Allora, devi sapere che Enrico Lucci, l'ex Iena e tutto, ha fatto un po' arrabbiare Pierluigi Bersani. Ma perché? Perché si è presentato in modo un po' strano all'assemblea di quella che poi è diventata una nuova forza politica che oggi abbiamo saputo, ieri abbiamo saputo, si chiama Democratici e Progressisti. Senti come Lucci ha fatto arrabbiare Bersani. Se qua se dividemo, ci sono i fascisti, i populisti, senti, tutta adesso, Europa. Adesso, quando ti vesti seriamente ti rispondo. Vabbè, ma che perché sembra... qui non si scherza. Ma mica sto scherzando. Quando ti vesti seriamente io ti rispondo. Che è chiaro? Che adesso. No, adesso. No. Quando ti vesti seriamente io ma ti rispondo. Ma sono vestito seriamente. No, non sei vestito seriamente. Ti volevo dire che non la sei storia ci seriamente. Ha insegnato che ogni scissione è casino, non vince mai nessuno. Perché dobbiamo fare sta cosa? È un suicidio. Non lo facciamo, pensateci mille volte. Non si può fare la scissione, capito? Era vestito da soldato dell'Armata Rossa. Sì, e quando gli ha detto quando ti vesti seriamente si è solo tolto il cappello. Vabbè, credo fosse per Nemo, perché la trasmissione che fa adesso, giusto, Nemo giusto, nessuno giusto, escluso. Giusto. E insomma, però Bersani non si è arrabbiato. No, si è arrabbiato a suo modo. Si è arrabbiato bersanianamente. Sì, sì, esatto, smacchiando il giaguaro. Smacchiando il giaguaro. Vabbè, ma parliamo ancora tra poco di scissione. Sì, qualcosa di no, scissione che, ancora dobbiamo no, parliamo dire. Qualcosina. Di dobbiamo qualcosina dirla? Di scissione la diremo. Quando è che dai? Ci scissiamo io e te? Ci scindiamo. Scinde la pioggia, ma che fai? Allora, traffico. Scindiamo il traffico. Scindiamo il traffico e poi siamo ancora insieme. Maiaste! Olè! E rieccoci insieme, ancora Marta Cagnola, Daniele Bellasio, la terza ora del Sabato del Villaggio, che poi si chiama RadioTube. No, mi viene da ridere perché oggi abbiamo parlato prima con Maria Luisa Pezzali di bigiotteria e io dicevo che a casa mia si chiamava oro del Giappone, che in Italia si chiama ottone. E adesso mi scrivono oro di Pavia, che quando non è buono lo butti via. Adesso facciamo tutte le rime. Oro di Olanda, che in Italia si chiama... No, perché ognuno aveva il suo... No, il perché suo siccome oro. Qualche istante fa ho detto la terza ora del, del Sabato del Villaggio, che si chiama RadioTube... Niente, vabbè, leggevo i messaggi, mi sono distratta, Daniele. Vabbè, okay. Qualcosa sulla scissione, qualcosina. Ma no, ma perché sulla scissione? Qualcosina sulla scissione, no, perché c'è qualcuno che aveva... Previsto, no, aveva previsto tutto, ma allora, intanto Corrado Guzzanti, vabbè... È straordinario, è più bravo di tutti i tempi. Tra l'altro questa puntata di RadioTube, lo dico per i teleradio ascoltatori, è decrozzizzata, cioè non verrà mandato in onda nessun audio di Crozza, solo perché stiamo aspettando la nuova stagione no, sul nuovo canale. E anche perché il nuovo Emiliano, insomma, non sì, ti è piaciuto, ma il nuovo Emiliano, insomma, non ha fatto così ridere. Mentre qualcuno, per commentare Democratici Progressisti, le divisioni e le scissioni, ha fatto tornare un po' virale un vecchio video in cui Corrado Guzzanti faceva Fausto. Oggi me l'hanno rimandato 27, in cinesi, esatto. Un video del 2010, credo che oggi mi hanno rimandato tutto. Perché tutti. Spiega tutto, senti Fausto, senti. Sentiamolo. Bertinotti. Oggi i grandi animali non fanno più paura a nessuno. Il grande leone della savana, che un tempo terrorizzava l'uomo, oggi ci guarda mansueto dietro le sbarre di un giardino zoologico. Di cosa abbiamo paura? Dei virus, microorganismi che non riusciamo neanche a vedere. Allora noi dobbiamo continuare a scinderci sempre di più. Seguite, compagni? E creare migliaia di microscopici partiti comunisti, indistinguibili l'uno dall'altro, che cambia continuamente nome e forma, nome e forma, nome e forma, e attaccare la destra come gli insetti. Berlusconi, punzecchiato da un nemico che non riesce neanche a vedere, viene preso da un anticomunismo isterico e ce la prende col Partito Democratico spingendolo verso le nostre posizioni. Fine del dialogo. E inoltre vorrei aggiungere, un giorno questi grandi e goffi partiti del bipolarismo finiranno divorandoci da soli, come i dinosauri, che sembravano invincibili, ma poi si sono estinti, lasciando eredi della terra i piccoli roditori, che finalmente potranno uscire dalle loro tane e dare inizio a una nuova straordinaria era sociale. Allora, ad Andrea Roccabella in regia è partita una ridarola che è esteso sui cursori, cioè non lo vedo più esteso sui cursori da ridere. Guzzanti. Guzzanti. Dai, parliamo un po' di comunicazione politica? Sì, parliamo di comunicazione politica perché la scorsa settimana abbiamo cominciato a parlarne, perché tra l'altro tu ci sei stato proprio fisicamente a Parole Ostili a Trieste, vero? Yes, e avevamo come ospite il sindaco di Bergamo del Partito Democratico, Giorgio Gori. Però tutti gli schieramenti politici sono finalmente attenti a questo, sì, a questo argomento, perché non è più possibile scindere l'uso della rete dalla comunicazione in genere, dalla comunicazione politica in questo caso in particolare. Allora, abbiamo con noi in linea un deputato di Forza Italia che è in particolare responsabile internet e nuove tecnologie, appunto, di Forza Italia, ma è anche autore di Internet e comunicazione politica, strategie, tattiche, esperienze e prospettive, e qui sulle prospettive sono veramente molto interessata, edito da Franco Angeli. Buonasera Antonio Palmieri, buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera Marta, buonasera Daniele, a tutti gli ascoltatori ovviamente. Allora, siccome io il libro l'ho letto, dico subito che a dispetto del titolo molto accademico, e dentro al libro c'è un bel discorso profondo anche di livello come dire accademico, però in realtà è pieno di fatti e di esempi concreti, quindi il titolo è un po' così, però è bello anche perché racconti un sacco di cose personali, vengono raccontate un sacco di cose pratiche. Antonio Palmieri, è vero perché è il travaso della mia esperienza personale, sia per la mia presenza come Antonio Palmieri online, sia come responsabilità per Forza Italia, che dura dal 95, inteso come 1995, e quindi sono tanti anni e ho cercato di non fare un saggio accademico, perché io non sono un accademico, e come dico all'inizio del libro, c'è un vecchio proverbio spagnolo che dice parlare di tori non è come essere nell'arena. Ecco, diciamo, nel mio piccolo sono un torero, ho voluto condividere anche dei pezzi inediti delle nostre campagne elettorali, tra l'altro. Abbiamo ancora... Pronto? Sì, ci sono. Qua, si sente eccolo benissimo. Qua, ecco qua. Sì, mi sono, ho avuto un momento di ansia da... da caduta della linea. Non mi sono scisso da voi, ecco, non ho fatto no, la del programma. No, a parte il fatto che l'onorevole Palmieri è un esperto di fotografie di... tramonti, albe. Sì, perché lavora, perché lavora tanto, quindi... ma no, ma perché io lo seguo e lui posta albe e tramonti e quindi sì, sì, anche l'onorevole Palmieri ha un suo cotè poetico instagrammatico di orizzonti. Anch'io un essere umano, vorrei dire sì, che il fatto di essere temporaneamente deputato non mi scinde dall'essere in modo permanente un essere umano. Allora, comunicazione politica, qual è la prima regola della comunicazione politica al tempo di internet? Che la realtà viene sempre prima della comunicazione. Vale per internet, valeva prima, varrà anche dopo, perché non si può pensare con quella che si chiama narrazione, storytelling, che significa raccontare storie e quindi raccontare frottole da un certo punto di vista, di poter superare quello che è la realtà. E la realtà è fatta dalla condizione sociale, economica che vivono le persone, è fatta certamente dalla condizione della politica, è fatta da tanti fattori, dall'essere lo sfidante piuttosto che campione in carica, da essere un nuovo della politica piuttosto che persone che sono in campo a tanti anni, sono tanti fattori che vengono prima della comunicazione. Realtà anche in tempi di, perdonatemi, dico questa parolaccia orribile, post-verità, di cui parliamo sempre, certo, cioè realtà... così, non vera, che però diventa più vera del vero solo perché si diffonde in rete? Sì, diciamo che anche questa non è una grandissima novità, perché le leggende metropolitane ci sono sempre state e mi ricordo, se lo ricordo male, sul Monte Sinai parecchi millenni fa furono date le tavole della legge e c'era già un riferimento alle fake news del tipo non dire falsa testimonianza. Quindi noi siamo fatti, esseri umani siamo fatti così. In un tweet, peraltro, è detto in un tweet. Ah, sì, in un tweet quasi ci stavano tutti i 10 comandamenti. Esatto. Quindi, insomma, la verità è semplice da questo punto di vista. E io sostengo che il tema della post-verità, il tema delle fake news, è sicuramente un tema importante, però è diventato di grande attualità perché hanno perso le ultime elezioni da Brexit, tra le elezioni americane e anche il nostro referendum, le hanno perse quelli che dovevano vincerle. E quindi per l'establishment politico-culturale sono diventate un problema delle fake news, come se avessero perso per colpa delle fake news. Ma non è così. C'è un problema in rete legato al fatto che le informazioni molto legate alle emozioni si veicolano più velocemente, mentre le informazioni, passiamo al termine, più ragionevoli invece faticano. Forse non c'è un problema di post-verità, ma c'è un problema di saper veicolare il messaggio inserendo dentro una dose di emotività che ne favorisce la diffusione. Obama in positivo, ma per certi versi in Italia anche Silvio Berlusconi ha avuto esempi di questo tipo, cioè l'idea che se tu dai un'informazione ragionevole senza emozione in rete non passi. Allora, questo è vero, ma anche questa è una cosa antica, è una delle leggi della retorica, dice che l'uomo non è semplicemente un animale razionale e quindi ci sta il fatto che dobbiamo essere attrattivi in qualche modo. Se andiamo a una conferenza, un incontro pubblico, a un incontro politico e l'oratore è mortifero perché legge in modo piatto un testo, è chiaro che tutti ci scindiamo dalla relazione con lui. Bisogna essere capaci e bravi di proporre buoni contenuti in una bella forma. Questa è la scommessa di tutti noi che facciamo comunicazione, voi compresi. Tocca formare la classe politica, educare la classe politica alla rete. Classe politica, peraltro, di esponenti di tante generazioni, non è così facile per tutti. No, non è facile sicuramente. Io dedico la seconda metà del libro, che è fatto di 4 capitoli, ma appunto il quarto Cuba metà libro, lo dedico proprio al singolo esponente politico, mentre la prima parte è dedicata un po' ai leader e anche al racconto delle cose che abbiamo fatto noi online e che normalmente non ci vengono riconosciute, ma dedico appunto la seconda parte al singolo esponente politico con consigli pratici, come diceva prima Daniele, per aiutarlo a fare questo passaggio. Si tratti del consigliere comunale del comune più piccolo d'Italia, così come di un senatore, di un europarlamentare. ci dobbiamo aiutare, dobbiamo imparare tutti a stare in questo strumento che chiamare nuovo oramai è un po' anacronistico, sì, perché ormai è un pezzo della nostra realtà, ormai la differenza tra virtuale e reale non ha più ragione d'essere. Impossibile starne fuori, l'avevo chiesto anche la scorsa settimana al sindaco di Bergamo, perché la tentazione per tanti è dire vabbè basta, mi tolgo, mi depenno. Troppa rabbia. Eh sì, però intanto gli altri parlano comunque di te, specie se sei una persona minimamente in vista, e al tempo stesso vuoi non lasciare traccia di te ai posteri? Io sto online per i miei figli, mica perché mi interessi. No, questo hashtag si scherza. Però la questione è comunque di volere lasciare anche una traccia positiva di sé. Ovviamente se si fanno cose buone e che valgono la pena di essere raccontate, io credo che questo sia una motivazione sufficiente a voler stare online. Poi c'è anche il fatto che, a mio avviso, giocandosela bene, si aumenta un consenso personale che diventa inevitabilmente poi un consenso anche per la propria forza politica, e in questo modo si dà un piccolissimo apporto magari alla vittoria generale. Certo, concetto di rete. Allora intanto io retwitto un paesaggio dell'arte fotografica dell'onorevole Palmieri, ne ho trovato allora uno io cerco qualcosa di politico. Ne ho trovato quello con la nebbia. Quello con la nebbia, sì, perché sì, è l'ultimo che ha postato. Sulle palme. Sì. No, ma l'onorevole Palmieri lo sai perché gli metto i cuoricini quando mi fa le albe, i tramonti. E specifico che sono normalmente fatte dal settimo piano del condominio di periferia dove abitiamo con la mia famiglia. Infatti mi pare un ottimo punto di osservazione in tutti i sensi. Brava. Allora, l'onorevole Antonio Palmieri, deputato di Forza Italia, responsabile internet e nuove tecnologie appunto di Forza Italia, ricordo anche il suo volume che consiglierei agli esponenti politici di ogni schieramento, internet, yes, e comunicazione politica, strategie, tattiche, esperienze e prospettive, edito da Franco Angeli. Grazie alla prossima occasione, buon lavoro. Grazie a voi, viva Radio Tube. Grazie mille. Noi ci ritroviamo tra poco perché dalla politica passiamo alla televisione e che televisione. Oh yeah. A tra poco. Di cosa abbiamo paura? Dei virus, microorganismi che non riusciamo neanche a vedere. Allora noi dobbiamo continuare a scinderci sempre di più e creare migliaia di microscopici partiti comunisti. YouTube. Rieccoci insieme con qua. Radio Tube. Abbiamo detto che abbiamo parlato. Fammi mettere comoda che sto cadendo dalla sedia. Ecco. Farei proprio un bel effetto. Allora, abbiamo parlato di politica, abbiamo parlato di comunicazione di politica e adesso vorrei parlare un po' di televisione. Sì. Perché questa settimana le cose più belle le ho viste su Rai 3. Già. L'ho anche twittato, ho proprio fatto coming out. Le cose più belle sono state, secondo me, per esempio, domenica sera, credo fosse domenica sera, non vorrei sbagliarmi, ho visto un blob speciale tutto su Teddy Reno, che era bellissimo. 90 anni, è una carica, una voce, una personalità. Va a cantare in un posto strano. Sì, a concerti programmati per anni ancora. Sì, così in si Omane, fa. Albo, vabbè, viaggia anche. Grande. Poi mi è piaciuto tantissimo. Aspetta, te ne faccio sentire un pezzettino. Addirittura. Eccolo qua, eccola qua. Nel 1957 la televisione è entrata nelle case degli italiani da soli 3 anni. Entrata si fa per dire. Gli abbonati sono soltanto 673.000. Un televisore costa fra le 150 e le 300.000 lire, quindi un lusso ancora per pochi. Ma anche fare la televisione costa. I programmi come Lascio Raddoppio, Il Musichiere, Telematch e l'apertura di nuovi centri di produzione come quello appena inaugurato in Via Teulada a Roma hanno richiesto uno sforzo economico enorme. C'è solo un modo per far cassa: introdurre nel palinsesto la pubblicità. Allora, questa è stata una puntata della Grande Storia che è andata in onda lunedì sera in seconda, terza serata, insomma, attorno alle 11. E chi mi conosce sa che io sono leggermente ossessionata da Carosello, sono una collezionista di Caroselli e una cultrice della materia, quindi questo era dedicato a Carosello, ma cosa più bella, il nostro idolo, il nostro mito. Enza Sampo, la voce di Enza Sampo. Amiamo sconfinatamente. Grande. E poi un altro grandissimo prossimo, un altro grandissimo appuntamento televisivo, tutte le domeniche alle 22.50, andate in onda la prima puntata e anche qui abbiamo un brevissimo estratto sempre su Rai 3. La voglio affrontare da sola, perché la cosa è mia, l'affronto io senza che faccia soffrire altri. Come io sento che loro non stanno, non sono felici, loro sentono che non lo sono io. Loro stanno tristi, è vero, però chi lo tiene, chi lo prova sono io. Se muoro è moro, che invece metto a pensare mesi prima? Per me le cicatrici e la testa calva sono le mie coppe di vittoria. Questa è una storia lunga un anno. Per la prima volta, 5 reparti dell'ospedale pediatrico di Roma Bambino Gesù hanno aperto le loro porte. Questa è la storia di 10 vite coraggiose. Io non c'ho paura. Allora, io avevo molta paura quando ho visto annunciare questa trasmissione, perché ho detto accidenti, entrare in un ospedale pediatrico, il Bambino Gesù di Roma, raccontare le storie dei ragazzi alle prese con la malattia è una sfida difficilissima. Concordo totalmente, l'ho visto anch'io. Io avevo qualcosa di più della paura, ero persino scettico, perché me le trasmissioni con i bambini mi mettono sempre sul chi va là. Invece è una trasmissione stupenda, guardatela domani sera la seconda puntata. E infatti, oppure su Rai Play recuperate la prima, ovviamente. E infatti, non a caso, abbiamo subito voluto chiamare la produttrice creativa. Io sono molto contenta di averla con noi in diretta a RadioTube, Simona Ercolani. Buonasera Simona. Buonasera, grazie, buonasera a tutti. Siamo stati sinceri, l'abbiamo detto che avevamo un po' di così, un po' di timore nell'avvicinarci tutti a questa trasmissione. Anche noi avevamo un po' di timore, devo dire. Dopodiché, no, sono molto contenta che abbiate apprezzato, è stato un lavoro, tuttora, un lavoro particolarmente impegnativo ed emozionante. Allora, com'è nata l'idea, il progetto? Non è un'idea scontata. L'idea è nata per diciamo vicende personali, nel senso che ovviamente da romana e da mamma ho avuto modo di incontrare il Bambin Gesù, ci sono vicende anche di amici, parenti, insomma, che hanno avuto a che fare in maniera più seria di quanto sia capitato a me, per fortuna, con l'ospedale. Quindi ho sempre coltivato un po' questa cosa, dico, è un mondo che andrebbe raccontato, perché è un mondo veramente speciale. Dopodiché piano piano uno pianta il seme e poi piano piano la pianta cresce, e l'ho proposto al Bambin Gesù e alla Rai, e superate le prime diffidenze del Bambin Gesù, che insomma ci ha fatto un esame di terzo grado, giustamente, questa cosa mi ha molto rincuorato, devo dire, nonostante sia stato faticoso ovviamente spiegare, convincere eccetera, però appunto ho detto, beh, insomma, è il posto come me lo sono, questo posto è come me lo sono immaginato, cioè sono particolarmente serie ed accurate in tutto. E niente, siamo partiti e la cosa, quello che abbiamo fatto in realtà non è stato, come si fa normalmente, scegliere delle persone da raccontare, ma abbiamo invece proposto a famiglie e ragazzi interessati se avevano voglia di partecipare al progetto, e quindi quelli che hanno aderito poi sono stati raccontati. Ovviamente ci eravamo dati dei limiti sia di tempo sia di numero, perché per ovvie ragioni, però insomma è stato fatto, come dire, insieme anche alle persone che poi noi raccontiamo all'interno della serie di documentari. Ecco, nella trasmissione ci sono due cose molto belle secondo me. La prima è che ovviamente, come tutte le sue produzioni televisive, hanno una qualità tecnica perfetta, ma si vedono tantissimi volti, restano molto impressi i volti, e quindi le storie delle persone hanno subito una faccia. E poi è una televisione che ha al centro le emozioni, lo possiamo dire, perché comunque non si può non provarle guardando una trasmissione del genere, però non si valica mai il limite dell'eccesso, della retorica, del sentimentalismo. Ecco, come si fa a fare una televisione che racconta anche le emozioni senza far slittare la frizione, senza mai esagerare? Non è facilissimo in questo caso in particolare, perché appunto considera che, ecco, la prima puntata, per dire, l'abbiamo rimontata 4 volte per trovare la misura giusta e cercare di restituire al massimo quello che noi abbiamo visto, quello che noi abbiamo osservato, perché la tecnica che abbiamo utilizzato è quella dell'observational documentary, cioè non interagire, non diciamo far accadere delle cose, anche se vere, in modo tale che la struttura narrativa diciamo sia più fruibile o più efficace. Noi siamo stati un metro indietro, un passo indietro, e abbiamo, anche evitando di ostacolare ovviamente anche il processo normale dell'ospedale, e abbiamo osservato e poi abbiamo unito i puntini. Ed effettivamente lo sforzo è stato quello di restituire una realtà dolorosa, ma non avere uno sguardo pietistico su questa realtà. Tra l'altro poi è diventato anche un fenomeno social, l'hashtag ragazzi del BG, mi pare un fenomeno interessante per una trasmissione del genere. Sì, abbiamo lavorato diciamo di sottrazione, dopodiché mi fa piacere che avete colto questo uso dei primi piani, perché i volti di questi ragazzi, dei medici, dei genitori, sono dei volti che raccontano solo con lo sguardo tantissimo, cioè con meno parole e più appunto sguardi, per così dire, espressioni, no? Che sguardi meravigliosi, c'è lo sguardo di Clizia che è assolutamente pazzesco. Incredibile, quello di Roberto, sono ragazzi che poi veramente, non lo so, sono veramente straordinari. Simona ha detto observational documentary, io ho guardato un po' sul sito di Stand By Me, che è la società di produzione che lei ha fondato e dirige, e leggo che le varie produzioni sono bioepic, infotainment, documentary, entertainment, factual, docu-reality. Ma insomma, ci sono un sacco di nuove forme di intrattenimento con un sacco di nomi difficili. sono le convenzioni internazionali. Diciamo che il sito è dedicato, come si dice, B2B, quindi al mondo internazionale, e che diciamo ama... moltissimo, io devo dire sono un po' in polemica con questo, però bisogna adeguarsi e diciamo suddividere in tanti sottogeneri dei generi diciamo più macro, ecco. No, perché quando io ho elencato questi nomi a Daniele Bellasio, lui mi ha guardato smarrito con i suoi occhioni azzurri e mi ha detto... Sfide. Volevo sapere perché gli uomini semplificano. Ma mi ha guardato smarrito e ha detto: le donne invece complicano. Sì, le donne. No, noi piacciono un po' più le sfumature. Volevo sapere se potevo fare una domanda su sfide, perché è ovvio che tutti i nomi che ho guardato e ho detto sfide. Basta. No. Io volevo fare una domanda più o meno seria. Sfide è un bioepic? Sì. Ok. Ecco, allora la domanda con la parola semplice mia invece vorrebbe essere un'altra. Allora, sfide è una delle poche cose che si ricordi, andate in onda sulla Rai, lo dico io, per cui me ne assumo io le responsabilità, di forte innovazione sul fronte dello sport. Allora io chiedo, secondo lei perché è così difficile innovare in particolare sullo sport in Rai? È un problema di target? Cioè nel senso che si ha sempre in mente l'idea che chi guarda la Rai ha da una certa età in su, oppure ci sono altri problemi? Cioè sono pochi i casi, soprattutto sullo sport, di grandi innovazioni. E sfide è sicuramente un caso. Sì, guarda, allora... In realtà non è relativo tanto al target in termini di età, quanto al target in termini di familiarità con la materia. Cioè generalmente ormai sfide un ragazzo maggiorenne che cammina per conto suo, ha avuto tra l'altro anche tanti figli ha fatto nel frattempo, no? La scommessa iniziale è stata quella di non raccontare lo sport in termini gergali soltanto per appassionati, quindi diciamo una comunità ampia ma chiusa, bensì raccontare lo sport anche a quelli che normalmente non lo seguono tantissimo, non conoscono tutti i termini tecnici, perché Lo sport ti regala delle storie che hanno valore a prescindere dalla passione per, quel per quella determinata disciplina, no? Giusto. Cioè, normalmente sono delle storie che hanno ecco, tutti gli elementi per avere una struttura narrativa molto, molto, molto efficace. E quindi, allora, la scommessa iniziale era: parliamo a tutti, non parliamo solo a quelli che normalmente leggono la Gazzetta dello Sport o vedono le trasmissioni sportive, diciamo appunto per addetti, okay, no, per ultra appassionati. E questo, diciamo, questa scelta qua iniziale è stata, diciamo, una scelta vincente e innovativa. E poi a me basta che ci sia Ughetta Lanari a dire delle cose e a me può raccontare anche la lista della spesa. Simona, le chiediamo solo un attimo di pausa, traffico, perché sennò il collega del traffico è lì ad aspettarci. Mi dispiace farlo aspettare o farla aspettare, se è una donna non lo so ancora, adesso lo sentiremo. E poi abbiamo ancora una brevissima domanda, a tra pochissimo. YouTube. Eccoci ancora insieme a RadioTube, ancora insieme a Simona Ercolani, produttore creativo o produttrice creativa, come preferite, tra l'altro di questo splendido Ragazzi del Bambino Gesù. Carlo da Como al 349-238-6666 ci scrive: io, appassionato di calcio, facendo zapping durante la pubblicità della domenica sportiva, ho colto per caso quella splendida trasmissione. Mi piace questa cosa, colta per caso, facendo zapping durante, e immagino che non abbia girato più sulla domenica sportiva. Non lo dico per far arrabbiare i colleghi della domenica sportiva. E poi, in maniera un po' colorita, io depuro un po' il messaggio. Carlo dice: è un peccato che vada in onda ora così tarda. In realtà lo dice in maniera un po' più colorita, ma è un appassionato di sport, sono uomini rudi. Simona, quali sono le prossime sfide? Sfida, che brava, ma che brutta, brava questa. Che brutta, di Stand By Me della casa di produzione che ha fondato. Innanzitutto domani, che c'è la seconda puntata alle 22.50 siamo lì, del siamo Bambino lì. Gesù, e la seconda puntata è più difficile della prima, quindi tra l'altro ve la consiglio, perché ci sono delle sequenze, secondo me è più bella, e ci sono delle sequenze che davvero strepitose. E poi invece una cosa molto più frivola, un programma divertentissimo, romantico, che andrà in onda su Discovery Real Time il 14 marzo su l'amore. C'è un dating ambientato in un ristorante, si chiama Primo Appuntamento, ed è molto molto divertente, per cui la domenica da marzo, cioè a marzo, avremo la domenica Bambino Gesù su Rai 3 e First Date su Real Time. Che per, meraviglia, diciamo, consolarsi, per scaldare il cuore. Mi piacciono queste cose qui, un po' così, un po' romantiche, un po', come dico io, un po' da femmine. Un che po' bello. Da femmine. Romanticismo, commedia romantica inglese, molto molto molto carino. Fantastico. Grazie. Grazie, grazie, grazie Simona Ercolani, grazie mille, a presto, alla prossima occasione, grazie mille, grazie. Che bello, che bello. Che bello, ma restiamo un po' in ambito sportivo. Ma tu non sai cos'è successo questa settimana? Una cosa incredibile. Allora, io so che c'è gente... Hanno licenziato Claudio Ranieri. Ma scusa, noi qualche mese fa eravamo lì, il miracolo. Ma no, ma neanche, sono ormai settimane. Sì, lo volevano re, lo volevano Lord. L'hanno licenziato. Cioè, ma ti pare che uno esonera? Ma è come se l'Inter avesse esonerato Mourinho. Appunto, non a caso dico Mourinho, perché Mourinho ha dimostrato di essere il vero special one. Che bel bagai, cosa ha fatto Mourinho? Allora, io te lo mostro alla radio, poi tu lo traduci. Vai. Sentiamo. My words is my shirt with his name is my little homage to somebody that wrote the most beautiful history of the Premier League. Somebody that probably would deserve the Leicester Stadium to be named Claudio Ranieri. Allora lui dice che il mio piccolo omaggio è la maglietta che indosso, perché infatti va scritto CR, che non è Cristiano Ronaldo. No, Rocco non è CR7, è non CR, è CR7 Claudio Ranieri. Ma per un uomo che ha scritto una delle pagine più belle della storia della Premier League, un uomo al quale si dovrebbe intitolare lo stadio. Ma come minimo uno che ha preso una squadra che doveva... Tra l'altro ti dico, perché tu che non segui queste cose calcistiche, che i due non si amavano neanche poi tanto in passato, Mourinho e Ranieri. Questo si chiama fair play sportivo. Assolutamente. Ma non è stato l'unico allenatore. No, c'è un altro allenatore che peraltro è un bel bagaglio. Stavo già pensando. Questo pure meglio. Questo mi piace tantissimo. Calma. Cioè, non è ancora primavera. C'è l'ormone che esce dallo studio 24 qua. Per Klopp, sì. Per Klopp. Sì. Klopp, senti che cosa ha detto. È andato sulla geopolitica. Sentiamo. Am I surprised that things like this can happen? It's not only football. For me, there's a few strange decisions in 16, 17. Brexit, Trump, Ranieri. I have no idea why. He's a really special person. Addirittura, capito? Allora, Brexit, parte, Trump ha detto: sono sorpreso che cose del genere possano accadere, sono successe ultimamente le cose un po' strane. Brexit, Trump e Ranieri. Hai capito? Un po' con questo accento tedesco. Ma dai, calmati. Ma in primavera che ti succede? Ma no, se a febbraio sei così. Che soffro un po' del fascino dell'allenatore io. Senti, ma sai chi compie gli anni oggi? Chi compie sempre gli anni oggi? Sempre di che tra calciatori 18 ne compie. Il portierino, quello Gigio piccolino. Donnarumma, sarà 7 metri, ovviamente. Ha 18 anni, ne dimostra di maturità, ragazzi, anche in campo, di coraggio, tantissimi. Gigio Donnarumma, 18 anni. Che poi voglio dire, un portiere così giovane, che portiere deve avere quella responsabilità, quella forza, quell'attitudine e da leader. Lui ce l'ha proprio tutta. E può prendere la patente adesso. Poteva già giocare in Serie A, ma non ancora prendere la patente. E poi votare, peraltro, c'è qualcosa di più importante. Quando ci lasceranno manca un minuto alla fine della trasmissione, ti lanci così in considerazione. Assolutamente non era un giudizio, era una battuta, era una ne battuta. Faccio tante. Allora, noi dobbiamo ringraziare il nostro mitico Cristian Goldoni. Senza fate lo stadio senza anche per lui la Lazio, andrebbe in onda il monoscopio alla radio. Brava, sei per proprio oggi ore. In forma, l'ormone ti porta. Ma dai, non dire grande. Così. E poi che ho la famiglia che ascolta. E poi Andrea Roccabella in regia, che ha smesso adesso di la ridere. La barba per... più bella di Radio 24. Sì. E niente, diamo l'appuntamento al prossimo sabato. Sì, seguiteci @MartaCagnola Di Bellasio, Canceletto Radio Tube. Vabbè, allora baci, abbracci, al prossimo sabato. Bravo. E per chiudere questo Radio Tube, sigla. Hey man, we are in Champions League. We are in Champions League, man. That was my name. Dilly din, dilly dong, come on.